sick Luke, sick Luke. Torno indietro, kickflip, il karma torna indietro. Vuoi venirmi ad uccidere, ma portato i miei demoni con me. Non fa altro che parlare di sé, ma non sono un cazzo senza di lei. E non sono nulla senza la gangre del rione. Non puoi essere. Torno indietro, kickflip, il karma torna indietro. Vuoi venirmi ad uccidere, ma portato i miei demoni con me. Non fa altro che parlare di sé, ma non sono un cazzo senza di lei. E non sono nulla senza la gangre del rione. Non puoi essere. Torno indietro, baby vieni qui, torno indietro. Bucciardi parlano del mio quartiere tipo quarantena. Non ce ne andremo, resti senza fede come un attacco d'asma. Fatti con la darti, porti crisantemi. Chiediti perché portiamo Cristo al collo. Tu parti che te ne pensi sia rispetto. L'invidia da poveri, non parlo di saldi. Dove stavi quando scogliavo la strada? Amici e fratelli che non ho più rivisto. Parlando al cielo anche se Dio non esiste. Per due soldi sono tutti quanti pronti in curarti. Sono fotti con la dark, non parlare della dark. Quando siamo in giro in 10 lei non ci può credere. Nei monti fa soldi proprio come Trastevere. Torno indietro, kickflip, il karma torna indietro. Vuoi venirmi ad uccidere, ma portato i miei demoni con me. Non fa altro che parlare di sé, ma non sono un cazzo senza di lei. E non sono nulla senza la gangre del rione. Non puoi essere. Torno indietro, kickflip, il karma torna indietro. Vuoi venirmi ad uccidere, ma portato i miei demoni con me. Non fa altro che parlare di sé, ma non sono un cazzo senza di lei. E non sono nulla senza la gangre del rione. Non puoi essere.